La zanzara. Cari ascoltatori, buonasera, 18:34 minuti, eccoci qua, Alessio Maurizio al posto di Giuseppe Cruciani, colpito da influenza e quindi impossibilitato a essere qua a tenervi compagnia come ogni sera. Non cambiano però le regole della serata, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Cominciamo con i titoli di Sky TG24. Letta da Napolitano per sbloccare l'impasse nel governo, il premier proporrà ai partiti un patto di coalizione. Anticipata giovedì la direzione del PD, Alfano chiede chiarezza, per Scelta Civica è arrivata l'ora di Renzi. Archiviata la richiesta di impeachment per Napolitano, ma Grillo insiste, è un problema da rimuovere, deve dimettersi. Il rapporto Istat dice che è disagiata una famiglia su quattro, la pressione fiscale è a livelli record e vola la disoccupazione giovanile. Tonnellate di rifiuti tossici con il cromo esavalente sotto l'autostrada A4 nel Bresciano, la procura apre un'inchiesta. Operazione della polizia italiana e dell'FBI contro l'andrangheta e il traffico di droga, arresti in Italia e negli Stati Uniti. L'Europa chiede alla Svizzera di rispettare i patti, circolano gli uomini, non solo i capitali, e blocca i negoziati sull'elettricità. Coppa Italia, stasera Fiorentina-Udinese vale un posto in finale, si parte dal 2-1 per i friulani, domani Napoli-Roma. Professore, professore, me la cambi per favore, quella faccia un poco triste, quel suo livido pallore. Professore, io la prego, professore, me lo faccia per favore. Primo, ho smentito di aver avuto contatti col Presidente della Repubblica, che mi ha lasciato capire che sarebbe stato bene. Ma ieri è andato in Rai 1, ha detto ho avuto tanti contatti. Appunto, ho smentito, punto di domanda. No, non ho confermato. Ho confermato. Sì. Cioè, non ho, con lei, Friedman, non ho smentito, ho confermato. No. Significa questo che io ho detto che avevo parlato con De Benedetti e con Prodi di mie conversazioni avute col Capo dello Stato? Assolutamente no. Però loro lo dicono. Ex post facto, però loro lo dice. Oh. Prima l'ha detto diversamente. È strano. Prego. Perché comunque. È una persona intelligente, ma qui sembra che non capisca. Io ho parlato. Non sto al gioco di reinterpretare quello che ho scritto. Quello che ho scritto lei può reinterpretare, smentire a metà. No, allora mettiamola così. Lei è un grande economista. Sì, va bene, ma lei è comunque una persona che sa ragionare. La prego di esercitare questa sua capacità di ragionamento nel distinguere tra quello che io a lei ho detto nel settembre del 2013, sì, cioè che avevo avuto conversazioni con Napolitano, sì, col fatto che non ho parlato con De Benedetti o Prodi o nessun altro di conversazioni avute con Napolitano. Coglie la differenza o no? Sì, sì, però Presidente, mi scusi, la differenza è... Indifendibile, mortificante. Oh, insomma, la questione ormai la conosciamo tutti, la sappiamo tutti, si gioca tutto ormai in punta di dichiarazioni, di precisazioni, di sottilizzazioni. La vicenda tirata fuori da Friedman, la difesa di Monti in questo battibecco proprio con Friedman questa mattina a Onibus, molto interessante. Monti sostanzialmente dice: io non ho detto a De Benedetti e a Prodi che Napolitano mi aveva ventilato l'incarico, ho detto semplicemente di parlare di questo argomento, cioè se mi capitasse che, cioè non ho rivelato cose segrete, non ho rivelato il fatto che Napolitano mi aveva ventilato l'incarico, anche se dice che Napolitano l'incarico gliel'aveva ventilato. Non so se questa autodifesa, se questa parete, diciamo, dietro la quale Monti si nasconde sia sufficiente a chi critica in questo momento molto moltissimo, fino a chiedere l'impeachment Napolitano, ma critica anche lo stesso Monti, non lo so. Certo, una domanda alla prima mia affermazione di questa sera su questo argomento è: ma se le cose che hanno rivelato a Friedman sono così delicate, così compromettenti, così tali da aprire addirittura una richiesta di impeachment, ma secondo voi Prodi e De Benedetti e lo stesso Monti le avrebbero fatte quelle dichiarazioni con la telecamera piazzata di fronte a Friedman? Io credo di no. Allora, di cosa stiamo parlando? Boh, sentiamo Monti, che a un certo punto dice: ma al massimo ne avrò parlato con mia moglie. Durante il periodo in cui più volte abbiamo parlato nel 2011, al massimo avrò fatto cenno a mia moglie. Cioè, capite cosa arriva a dire Monti? Perché, proprio perché questa polemica sembra montata sulla panna montata, cioè sul fatto che cosa ha fatto Napolitano? Certo, ha avuto un grande attivismo in quel periodo, il fatto stesso della nomina il 9 novembre di Monti, senatore a vita, il giorno dopo che Berlusconi si era sostanzialmente predimesso l'8 novembre dopo quel famoso voto andato in porto, ma perché l'opposizione era uscita dall'aula. Ecco, questa concomitanza già allora doveva far capire che Monti aveva già sondato il terreno, perché uno non nomina senatore a vita uno il giorno dopo se non sa che 4 giorni più tardi gli darà l'incarico per formare il governo. Allora, se questo era già sotto gli occhi di tutti, arrivarci adesso grazie al libro di Friedman fa un po' ridere. Comunque, complimenti a Friedman, perché ha messo su un bel casino davvero. Sentiamo anche come si rimuovono tutte le dichiarazioni, le prese di posizione. Qua c'è un Formigoni che, insomma, fino a un po' di tempo fa ha sostenuto anche Monti a parecchio. Sentite adesso come arriva a definire Monti. Che questo signor professore Mario Monti vada a rivelare i colloqui col Presidente della Repubblica a chi che sia, e in particolare a te, Benedetti, a Prodi, è una cosa vergognosa, che retrocede Monti dal livello di professore stimato in Europa a livello di sguattero pettegolo. E so quel che dico. Che fosse un mendicante, lei comunque non si scordi che è un docente. Poi dov'è il reato? L'ipotesi che io faccio di reato? Che Monti è andato a St. Moritz, perché non sono di Cuneo come me, sono chic, e quindi l'incontro li fanno a St. Moritz, è andato da De Benedetti, che ricordiamoci che De Benedetti nella vita fa il finanziere, e gli ha raccontato una notizia sensibile, il cambio di un presidente del Consiglio, e ricordiamoci che in quel periodo le borse erano come degli ottovolanti. Lamentevole. Vittorio, ti voglio bene, ma vorrei dare una lezione del giornalismo a te in diretta qui a Piazza Pulita. Sì, di giornalismo. Ma non di inglese, perché l'Italian Job ho ragione io. Io non oserei mai a criticare un titolo della Repubblica. Fai male. Perché, io sì. Perché dire che un titolo che io non ho scritto dal Financial Times è insolente, forse ti dà più fastidio il fatto che dalla bocca del tuo padrone, Carlo De Benedetti, lo scoop è finito nel Corriere della Sera. Scusami! Un funambolo insicuro, una luce impallidita. E c'è anche, avete sentito, diciamo, a colpi di fioretto anche qua tra Vittorio Zucconi di Repubblica e Alan Friedman. Tutto ruota attorno al titolo scelto dalla Financial Times per occuparsi di questa notizia, The Italian Job, colpo all'italiana, un titolo secondo Vittorio Zucconi forzato, un colpo basso appunto, invece secondo Friedman no, assolutamente, perché di questo si sarebbe trattato. Vogliamo sentire invece anche, visto che adesso siamo nella settimana sanremese, non poteva mancare ieri sera sempre alla Zanzara Alessandro Melluzzi, psicologo, psicoterapeuta, sui compensi per la Littizzetto e Fabio Fazio. Nonostante. Allora, la Littizzetto guadagnerà in onda a Sanremo 20.000 euro per 10 minuti di messa in onda. Un insegnante per 10 minuti di lavoro guadagna invece 2,5 euro. Allora, questo fa riflettere, no? Così come il fatto che Fazio in un anno guadagni quello che guadagnano 1.000 operai. È troppo, c'è una sproporzione eccessiva. In un'Italia a rotoli c'è una sproporzione eccessiva, e questi sono soldi del canone pagato dai cittadini, dai contribuenti e soprattutto da quelli poveri. Indifendibile. Quando ci vado grazie. Vado grazie perché è il servizio pubblico, perché mi piace, perché ho la libertà di dire la mia. A media, se da quarto grado guadagno 500 euro lordi a puntata, senza neanche il rimborso spese, perché mi piace, perché mi diverto, perché mi diverto. Non si scordi che hai sentito Melluzzi che poi conclude dicendo: io in Rai vado gratis, è servizio pubblico, però a Mediaset becco 500 euro lordi a puntata come se fosse una miseria, una mancetta. Facendo il confronto tra quello che rende Melluzzi e quello che rende la Littizzetto, Fazio, che fanno il 20% di share tutte le volte che vanno in onda, forse allora Melluzzi si è risposto da solo. Fazio e la Littizzetto prendono quello che il mercato li valuta, perché ricordiamoci che dietro c'è il mercato, ci sono gli spot. Vabbè, ma insomma questa polemica la conoscono tutti a memoria, sarebbe interessante farla ogni domenica per i calciatori. Cambiamo totalmente argomento, possiamo rimanere anche con questa musichetta in sottofondo se vogliamo, 800 24 00 24, perché l'argomento naturalmente è anche questo della serata, la richiesta di impeachment che però è stata respinta, mentre stiamo attendendo di sapere se ancora una volta la regia di Napolitano ci porterà a cambiare di nuovo al governo tra Letta e Renzi. Vedremo. Intanto però vogliamo parlare di un altro argomento. Abbiamo convocato il sindaco di Castegnato in provincia di Brescia, Giuseppe Orizio. Buonasera. Buonasera a lei. Non parlate degli stipendi ai sindaci, perché no, andremo molto in basso, ecco questo. E scendiamo di molto, forse ai livelli di Meluzzi, 500 euro. Ci sono sindaci ormai che rinunciano agli stipendi, voi no? No, ma comunque lei è no, molto bassa comunque per le responsabilità che abbiamo. Tra l'altro responsabilità grosse come quella di scoprire che nel tratto dell'autostrada A4 che passa nel vostro comune ci sono i rifiuti tossici, c'è il cromo, lo sappiamo da qualche settimana, qualche giorno fa l'ARPA ha fatto delle altre ricerche, ieri vi siete riuniti nella conferenza dei servizi e avete valutato la possibilità di stoppare addirittura i lavori del tunnel della TAV. Sì? Nel nostro territorio, nella parte a sud, quindi fuori dal centro abitato, si incrociano l'A4, sì, si incrocia la ferrovia Brescia-Milano-Venezia, si incrocia anche l'alta velocità con la Brebeni. Nel realizzare questi due sottopassi si sono trovate delle scorie di lavorazione risalenti a fine anni 80 e anni 90. E siccome contenevano cromo in misura molto elevata, abbiamo fatto ulteriori analisi e abbiamo verificato che nella falda c'era anche tricloroetano 4,5 volte superiore al consentito. Ieri in conferenza di servizi abbiamo deciso che ARPA dovrà rifare tutte le analisi, sì, perché vogliamo verificare se l'inquinamento è limitato a quel tratto di autostrada che è stato utilizzato, dove sono stati utilizzati questi materiali non consentiti, o se invece è più ampio. Perché se fosse limitato quel tratto di autostrada basta spostare i rifiuti e via, è finita lì. Altrimenti se ha coinvolto la falda acquifera o anche insomma è penetrato di più nel terreno, voi dite non basta rimuovere il terreno, bisogna fare una bonifica più grossa. In quel caso immagino, adesso poi ci dirà, chiederete anche aiuto alla regione, al governo, perché un piccolo comune non è che può fare da solo questi lavori. Io voglio dire soltanto una cosa, che capite che mentre parliamo dell'impeachment a Napolitano, a due anni di distanza, mentre aspettiamo il cambio della guardia ancora al Quirinale, Letta, Renzi, per una questione di cui nessuno ha capito l'esistenza e il fondamento, poi abbiamo invece a che fare con problemi terribili come questo. E chi dice che la terra dei fuochi è solo bruciavano gli scarti delle borse prodotte in nero negli scantinati di Napoli? Non è così evidentemente, perché insomma notizie come questa di Brescia devono far pensare e riflettere secondo me tutto. Allora, di nuovo insieme a Giuseppe Orizio, sindaco di Castegnato in provincia di Brescia. No, non c'è stato un colpo di stato alla zanzara. Giuseppe Cruciani ha la febbre e stasera vi tengo compagnia io, Alessio Maurizi. Caro sindaco, lei che idea si è fatto a proposito di questa vicenda dei rifiuti tossici in quel pezzo lì di autostrada? Chi ce l'ha messo e perché, secondo lei? Un comune di 8.000 abitanti non, sì, è certo la sede adatta per affrontare questo problema nella sua globalità, sì, perché è molto probabile che non si siano limitati a utilizzare scorie di fonderia in questo pezzetto di autostrada, ma che l'abbiano fatto per un tratto molto più ampio, e a questo punto chi ha responsabilità per fare questi accertamenti lo deve fare. Parlo della provincia di Brescia, parlo della regione Lombardia, non può essere solo il comune di Castegnato. Evidentemente, vede, io ho a cuore innanzitutto la salute e la sicurezza dei miei cittadini. Poi evidentemente c'è anche da tener conto che ci sono dei tempi stretti per realizzare queste due grandi opere, che sono la Brebeni e l'alta velocità, però non a scapito della verifica. Chiaramente queste passano dal suo punto di vista in secondo piano, perché prima è ovvio che la preoccupazione di un sindaco che è responsabile di quel territorio e dei cittadini, anche di fronte alla legge, è sulla salute, perché è chiaro che lei adesso vuole sapere appunto se la falda acquifera è stata contaminata, che cosa è successo esattamente. Però la domanda che le ho fatto non era, diciamo così, giusto per... Che idea si è fatto? Perché lei pensa a una frode, pensa che negli anni in cui è stata costruita si dava meno importanza forse a... recuperiamo i materiali inerti, si chiamavano inerti. In questa parte del mio territorio abbiamo già trovato parecchie discariche abusive che nel corso degli anni sono state realizzate. Probabilmente lo sviluppo industriale è stato fatto anche a discapito un po' dell'ambiente. C'erano magari regole o troppo leggere o mancanti in quel periodo, dove c'era un buco si scaricava di tutto. Però questo fatto dell'autostrada è più recente, sono fine anni 80 e per i mondiali 90 di calcio, quindi qualcosa di molto più recente. Qualcuno ha preferito utilizzare scorie di fonderia non trattate, quindi non depurate, per il sottofondo dell'autostrada, e questo è molto grave. Se avete visto Presa Diretta ieri sera, avete visto quanti sono i siti dove si tengono rifiuti che andrebbero trattati in un certo modo e non vengono invece trattati come dovrebbe, quanti sono, quanto rischia il territorio italiano, non solo nella Terra dei Fuochi, in particolare forse nella Terra dei Fuochi. Per cui invito di nuovo a non sottovalutare dicendo che sì, si tratta di... qualche buona notizia, però possiamo dare... Ecco, diamo qualche buona... Intanto la Procura ha aperto un'inchiesta, no? Sì, allora l'inchiesta innanzitutto, adesso noi stiamo verificando e a giro di pochi giorni sapremo di cosa stiamo parlando, se è una cosa che è limitata per terreno o se invece la matrice ambientale è toccata. Sappiamo però una cosa, che questa falda a 25 metri non serve né per l'uso umano, né per quello animale, né per irrigare i nostri campi, perché i cittadini di Castagnato bevono acqua pulitissima. Pensi che abbiamo appena fatto un investimento di 1 milione di euro per un nuovo pozzo. Quindi i cittadini di Castagnato da questo punto di vista non hanno alcun timore, non devono avere alcun timore. Siamo però preoccupati di quanto sia vasto questo fenomeno, e quindi questa vastità del fenomeno, questa pericolosità, non può essere solo il comune di Castagnato ad affrontarla. Vede? Ecco, ma chi dovrebbe essere secondo lei? Abbiamo avuto grande collaborazione con l'APA, ma ci sentiamo soli, e questo è preoccupante. Chi dovrebbe essere a questo punto a intervenire secondo lei? Cioè chi deve essere? La regione, la provincia, il governo? Dire che abbiamo avuto anche buona collaborazione con CEPAV e Itinera, che sono le società che stanno realizzando i due impianti. Però a questo punto vorrei che la provincia di Brescia fosse più presente. Fino ad oggi non ha mai partecipato alle conferenze di servizi. Vorrei che la regione Lombardia si rendesse conto che probabilmente questo fenomeno è più ampio del comune di Castagnato. Noi abbiamo chiesto, facciamo indagini sui tratti di autostrada dei comuni vicini a Castagnato, confinanti a ovest e a est. Perché e ricordiamoci che, ricordiamo che quello che abbiamo scoperto, l'abbiamo scoperto proprio perché si stava scavando per fare dei tunnel. Due sottopassi per consentire il passaggio dell'alta velocità e della Brebemi. Quindi è stato per questa ragione, per questo caso, altrimenti non si sarebbe scoperto nulla. E lei dice giustamente, facciamo ricerche un po' da tutte le parti lungo quel pezzo di autostrada per capire se la stessa cosa c'è anche altrove. Al momento nessun'altra verifica che lei sappia è stata fatta fuori dal suo comune? No, noi l'abbiamo chiesto formalmente in Regione Lombardia, attendiamo che si dia coerenza a questa nostra richiesta, e ovviamente vogliamo che i tempi siano anche molto brevi e vogliamo sapere davvero di cosa si tratta. Vogliamo verificare davvero se ci sono le condizioni per poter dire è limitato quel pezzo di autostrada l'inquinamento, se invece è più ampio. Vogliamo anche dire che quello che stiamo scoprendo lì in provincia di Brescia, in campagna, nella Terra dei Fuochi, ma anche altrove, meno male che lo stiamo scoprendo, purtroppo, ma meno male, perché meglio tardi che mai, e potrebbe anche diventare però davvero il primo punto dell'agenda di qualunque governo adesso, quello di mappare tutto il territorio, partire dalle cose che già si sanno, intervenire con un piano di spesa che dia anche occupazione e lavoro, perché qua c'è da lavorare per ripulire l'Italia. Direi proprio di sì, lei ha azzeccato, secondo me ha centrato in pieno qual è il problema. La priorità deve essere questa. L'indagine che va fatta in modo esteso è anche funzionale poi a tutelare il consumatore oltre che il cittadino, perché la filiera alimentare, là dove c'è questo inquinamento, deve essere interrotta. Noi ci stiamo avvicinando a Extra 2015 e avremo del cibo la parte più importante, anche il territorio bresciano si presenterà con questi grandi e bellissimi prodotti. Dobbiamo però poter dire ad alta voce questi prodotti non vengono da zone contaminate, ma per fare questo dobbiamo indagare bene quali sono i territori contaminati. Senta, lei ha detto che la buona notizia è che comunque diciamo, la falda acquifera che potrebbe eventualmente essere contaminata non ha a che fare né con l'irrigazione né con l'acqua che viene bevuta lì da voi. Assolutamente, neanche l'uso animale. Ma in questo mese e mezzo che avete fatto la scoperta, avete avuto modo di verificare dai dati delle ASL, insomma dati medici, se c'è qualche incidenza maggiore di malattie o di cose di cui dobbiamo preoccuparci nel vostro territorio? Ma vede, abbiamo fatto una verifica qualche anno fa ed era risultato che, avendo noi anche alcune discariche che nel tempo si sono realizzate, abbiamo avuto in un anno il superamento del 50% dei casi delle leucemie e linfome, però passati da 2 a 3 casi, poi ricondotti direttamente a 2. Quindi sono allora talmente pochi i numeri che le statistiche sì, non hanno... Ecco, numeri molto limitati, sì. Quindi non abbiamo però la certezza in alcun modo che nulla di questo influisca sulla salute, però i dati non ci preoccupano eccessivamente. Senta, lei non ha paura di fare, diciamo, la fine tra virgolette della terra dei fuochi di cui si parla da anni e nessuno interviene? Beh, diciamo che noi per tempo stiamo verificando quello che sta accadendo, per cui bisogna intervenire, ma vede, bisogna che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Siamo troppo abituati a sfuggire. Bisogna affrontarli. Un problema c'è, va affrontato, e tutti quelli che ne hanno responsabilità lo devono fare. Poi c'è un piccolo problema: chi inquina paga. Diciannove minuti, buonasera cari ascoltatori, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Lo ridico, non c'è stato un colpo di stato alla Zanzara, Giuseppe Cruciani è febbricitante, quindi stasera a tenervi compagnia ci sono io, Alessio Maurizio, insieme a Riccardo Buccero, Riccardo Poli, Laura Marchesi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Abbiamo i titoli, sì, di Sky TG24, TG3. Ore decisive per il governo. Letta a colloquio con Napolitano, rilancia il destino del governo nelle mani della provvidenza, ma avanti con il patto di coalizione. Dopo l'incontro al Colle Renzi all'Assemblea dei deputati PD, le batterie del governo sono scariche, è ora di cambiarle, decidiamo giovedì. Il comitato archivia la richiesta di impeachment ai 5 Stelle, Forza Italia non partecipa al voto, ma insiste, Napolitano chiarisca e Grillo deve andarsene. Al via a Napoli il processo per la presunta compravendita di senatori, Berlusconi dichiarato contumace di Pietro Avvocato per l'IDV. Ultimatum dell'Unione Europea alla Svizzera, se fermate gli immigrati bloccheremo i capitali, primo stop di Bruxelles al negoziato sull'energia. In attesa dell'ingresso di Etihad, i dipendenti all'Italia dicono sì agli ammortizzatori sociali a patto che la compagnia venga rilanciata. Il quotidiano L'Unità compie 90 anni nel numero speciale, in edicola domani, le prime pagine che hanno raccontato quasi un secolo di storia. Professore, me la cambi per favore, quella faccia un poco triste, quel suo livido pallore. Professore, io la prego, professore, me lo faccia per favore. Primo, ho smentito di aver avuto contatti col Presidente della Repubblica che mi ha lasciato capire che sarebbe stato bene. Ma ieri è andato in Rai 1 e ha detto ho avuto tanti contatti. Appunto, ho smentito, punto di domanda. No, non ho confermato. Sì. Cioè, non ho, con lei, Friedman, non ho smentito, ho confermato. No. Significa questo che io ho detto che avevo parlato con De Benedetti e con Prodi di mie conversazioni avute col Capo dello Stato? Assolutamente no. Però loro lo dicono. Ex post facto loro lo dice, prima la è strano. Comunque, perché no, è una persona intelligente, ma qui sembra che non capisca. Io ho parlato... Non sto al gioco di reinterpretare quello che ho scritto. Quello che ho scritto lei può reinterpretare, smentire a metà. No, mettiamola così. Lei è un grande economista. Sì, va bene, ma lei è comunque una persona che sa ragionare. La prego di esercitare questa sua capacità di ragionamento nel distinguere tra quello che io a lei ho detto nel settembre del 2013, cioè che avevo avuto conversazioni con Napolitano, col fatto che non ho parlato con De Benedetti o Prodi o nessun altro di conversazioni avute con Napolitano. Coglie la differenza o no? Sì, però Presidente, mi scusi, la differenza è... Chi l'avrebbe detto che Alan Friedman scatenava un casotto di questo genere? È un giornalista british che però ha, ha sollevato un polverone. Complimenti, perché al di là di come ognuno la pensi o della sostanza vera o presunta di questo appunto presunto ovvero scoop, perché diciamolo un po' chiaramente, insomma, si sta parlando di una cosa che sapevano tutti, i giornali erano pieni di titoli, il governo non ce la farà, si parla di Monti, perché si parlava di Monti? Perché era un nome papabile e io credo che bene abbia fatto Napolitano a un certo punto a sondarlo. Il punto su cui discutono Friedman e Mario Monti questa mattina, per esempio a Omnibus, un bello scambio di battute tra di loro, gustoso, è che Monti dice: io non ho detto a Prodi e De Benedetti che Napolitano mi aveva ventilato l'incarico, ho detto solo se dovesse succedere questa cosa voi cosa ne pensate, cioè non ho rivelato che Napolitano mi aveva contattato. Probabilmente è poco credibile a questo punto da parte di Monti, è una barriera sottile che lui cerca di mettere tra sé e il pettegolezzo e il fatto di avere fatto una gaffe. Però ripeto questa domanda, la giro anche a voi ascoltatori, 800 24 00 24: se Monti, De Benedetti e Prodi fossero stati coscienti che queste dichiarazioni erano così compromettenti, le avrebbero fatte a viso aperto di fronte alla telecamera accesa di Friedman? Non credo, quindi probabilmente insomma quello che fino a qualche giorno fa sembrava una cosa alla luce del sole, adesso il presunto scoop di Friedman ha reso tutto molto misterioso e quindi si discute su queste sfumature. Dice Monti: al massimo ne avrò parlato a mia moglie. Ma sentiamo invece alcune dichiarazioni di queste ore. Bisogna rispettare la riservatezza dei colloqui col presidente formali e informali. Ma Monti invece, che è veramente un disastro umano, è stata una delle peggiori catastrofe, il senatore sorride perché lo sa, si dimostra di un'imperizia totale anche in queste ore, ma facendo interviste, si è fatto fregare da Friedman, che è un furbone proprio, sembra il gatto e il topo questo video. Poi continua ad andare al telegiornale, a Omnibus, a raccontare queste vicende, mettendo in imbarazzo il presidente, che gli dice: uè, voglio, qua c'è la sentenza, ti devi stare zitto. Nonostante i suoi affanni. Ma quando c'è fumo c'è anche l'arrosto. Può essere una battuta, ma visto che il Presidente della Repubblica usa la metafora del fumo, io uso quella dell'arrosto. L'arrosto c'è, come? Quindi io francamente non mi stupisco del fatto che il presidente Napolitano si sia interessato della situazione. E francamente le dico anche che mi sarei stupita del contrario, cioè mi sarei stupita se il presidente Napolitano, di fronte a una situazione così, diciamo, convulsa che stava vivendo il nostro paese, beh, fosse stato tranquillo nel suo ufficio ad aspettare che si consumassero i fatti. Tra poco sentiremo anche un esponente di Forza Italia e gli chiederemo perché Forza Italia non ha votato per l'impeachment di Napolitano, così come ha proposto il Movimento 5 Stelle, perché se le critiche, avete sentito, sono durissime nei confronti di Napolitano, forse andava appoggiata la mozione dei 5 Stelle sull'impeachment. Adesso si dice che si chiederà un chiarimento a Napolitano e quindi si adotta una linea, diciamo, più sfumata. Però sono ore d'attesa anche per il futuro del governo. Sentiamo Letta incalzato, secondo tutti retroscena da Renzi, che sarebbe a un passo per il suicidio, cioè per andare a Palazzo Chigi senza passare dalle elezioni. Sentiamo Letta. Io voglio lavorare in continuità e domani presenterò questo, nelle prossime ore presenterò questo rilancio del patto di coalizione e nel rilancio del patto di coalizione un programma di governo per i prossimi tempi che io considero essere quello di cui c'è bisogno nel Paese, con una forte continuità con quello che abbiamo fatto. Professore, io la prego, professore, me lo faccia. Questo programma di governo, vedrete, è un programma di governo che è convincente, io sono convinto che convincerà i partiti, tutti i partiti che oggi sostengono il nostro governo, compreso il Partito Democratico. 800 24 00 24, cari ascoltatori, tra un attimo. Prima sentiamo però uno dei primi, diciamo, confronti televisivi nei quali è stato impegnato Toti, così come se la vede il nuovo consigliere politico di Berlusconi e di Forza Italia, così come se la vede con leader storici come per esempio Saverio Romano, Saverio Romano era, non Paolo Romani, Saverio Romano, sentiamo. Andrea Romano. Questo non è Romano, quello del PDL, ma è Andrea Romano di Scelta Civica. Scusate, ma c'è stato un qui pro quo con la regia, sentiamo. A me non sembra normale che in un'estate in cui c'è un governo in carica in Engadina si incontrino il presidente della Bocconi con banchieri, editori di giornali in causa col premier in carica. La prossima volta le consultazioni le faremo in una beauty farm. Sbaglio io, ma non mi sembra una cosa normale. Dico, la prossima volta le consultazioni le faremo in una beauty farm, visto che insomma la sua carriera politica è iniziata in questo senso. A me risulta che le consultazioni Berlusconi le abbia sempre fatte a Palazzo Chigi quando è stato incaricato, o al Quirinale, dove si dovrebbero fare. Cancellabile. Vabbè, l'ironia inevitabile, perché Toti è stato ospite nella Beauty Farm insieme a Berlusconi pochi giorni prima che venisse nominato. Insomma, sulla consistenza o inconsistenza, secondo alcuni, di Toti, i giudizi sono ancora aperti, perché l'esordio è di questi giorni. 800 24 00 24, cominciamo con i vostri interventi, cari ascoltatori. C'è Raffaele da Brindisi, buonasera. Sì, buonasera dottore. Io riflettevo un po' sul fatto che ha detto che Fabio Fazio è il mercato, sì, che gli fa il budget. Allora io mi domando, se un'azienda è pubblica, sì, perché pubblica, si deve attenere al mercato? E questo è da sempre però che è così, caro Raffaele. È da sempre così, ma è una cosa sbagliata. Sì. È la stessa cosa che succede negli ospedali. I dottori che lavorano in ospedale... Vale anche per Bruno Vespa, però raramente ci si indigna. Il dottore lavora in ospedale e non fa il suo dovere, e poi si va a fare le visite, sempre diciamo che l'introito è tutto suo, personale, e glielo consentono. È un dipendente pubblico, però si va a guadagnare i soldi al di fuori dell'ospedale e nell'ospedale non lavora. Però cosa c'entra allora, questo con Fazio? Vale per Fazio. Fazio è uno che fa guadagnare alla rete? D'accordo, lo facciamo lavorare. E la rete che si mantenga da sola con i soldi del mercato. Questa ha ragione, questa potrebbe essere pubblica. Però vedi, è una cosa di cui si parla da una vita, forse ha ragione, sì, ma perché noi no? Siamo stufati di pagare 113 euro e non guardo mai la Rai, perché al di là di qualche piccolo documentario alla fine non c'è niente su Rai 3. Su questo le do ragione, su questo le do più ragione. Se si riesce a mantenere col mercato, si mantenga col mercato. Se si mantiene con i soldi pubblici che noi cacciamo con l'abbonamento, che questo fa proprio Fazio, che guadagni normale, giusto, e i soldi che rimangono li mettono a monte e facciano qualcosa di buono. Questo è il discorso. Perché si devono consumare tutti e andare sempre a chiudere i bilanci in negativo? Ciò non toglie che con i soldi del canone si può pagare Fazio, ma alla fine è giusto pagare lo stipendio a uno che porta introiti in un'azienda, no? Questo è il punto. Dopodiché si può discutere del fatto che gli stipendi siano alti, come quelli dei calciatori, e alla fine poi sono alti i diritti televisivi, sono alti i costi dei biglietti, è tutto troppo alto forse, visto che sono anni che invece annaspiamo in una crisi senza fine. Questo è un altro discorso, così come un altro discorso quello dice giustamente lei, perché dobbiamo pagare il canone. Va bene, Raffaele. 800 24 00 24, sentiamo cosa ne pensano anche gli altri ascoltatori. Manca ancora una settimana a Sanremo, voglia parlarne. Poi è bello che questa cosa viene fuori solo quando c'è Sanremo, per in genere il resto dell'anno poi tutto tace, sono polemiche cicliche. Aldo da Modena, buonasera. Aldo, non ci sente forse? Sì. Ah, buonasera. Tocca a lei, Aldo. Sì, buonasera. Senta, volevo chiedere una cosa. Come mai noi dovremmo andare a votare, visto che questo presidente dei politici, perché non lo sento come mio presidente, decide lui e fa tutto lui? Ma non è che ha fatto qualcosa in meglio per l'Italia, perché da 3 anni... stiamo ancora peggio di come stavamo prima. No, questo volevo sapere, perché io dovrei andare a votare, capito? Ho capito, Aldo, che dire, è difficile dare una risposta a questo. Però sa, non è tutta colpa di Napolitano se poi l'esito del voto viene controvertito, è colpa anche per esempio di una legge elettorale che ci consegna un risultato in cui ci sono 3 partiti che hanno gli stessi voti, un partito, il PD, che ha un pochino più di onorevoli alla Camera ma che non ha la maggioranza al Senato, e quindi è una matassa da sbrogliare, ecco il protagonismo di Napolitano. Comunque, Angelo da Bari, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo denunciare una situazione del poco paradossale che purtroppo stiamo vivendo da un anno e mezzo a questa parte, io e la mia famiglia. Che succede? Praticamente noi ci sentiamo praticamente lesi di quelli che sono i principali diritti costituzionali, dove vengono completamente calpestate l'articolo 3, l'articolo 9, l'articolo 34. Vabbè, non ci faccio l'elenco degli articoli. Che succede, no, Angelo? No, vabbè, sì, succede che praticamente io sono il padre di un ufficiale medico del Ministero della Difesa. Mio figlio vince una specializzazione per specializzarsi in malattie dell'apparato cardiovascolare. Il Ministero gli nega la possibilità, il concedo senza retribuzione per andare a frequentare questa specializzazione. Ma in quale paese viviamo noi? In un paese dove praticamente si va al risparmio, ma perché lo Stato dovrebbe dire grazie a uno che non gli chiede lo stipendio per specializzarsi? Ci sarà un motivo se gli hanno rifiutato questa specializzazione, io non lo so, e non è forse il luogo adatto la radio per parlare di questa cosa, perché nessuno sa bene, forse, o capisce bene i motivi. Ci sarà da fare un ricorso, avvocati, non lo so, Angelo. Lo so, ma il fatto che mi rincresce è che io ho sempre insegnato ai miei alunni, sono un docente. Sì. Che la carta costituzionale è la garanzia del cittadino. Io mi rivolgo al Presidente della Repubblica dal mese di agosto, il Presidente della Repubblica non si degna di rispondere per dire hai ragione, hai torto, hai sbagliato, la Costituzione non è uguale per tutti. Come mai non mi risponde? Va bene, quindi lei aggiunge ai tanti motivi per cui si può criticare Napolitano anche questo suo, che però francamente è un po' poca cosa rispetto a tutto il resto di cui stiamo parlando. Con tutto il rispetto, Angelo, per la sua vicenda, grazie comunque, buona serata. Roberto da Crotone. Sì, non mi ero mai accorto che l'Italia fosse una cozzaglia di servette da mercato con questi discorsi di Friedman, eccetera. Fanno più ridere che altro. E mi rammarico di una cosa sola, che nessuno si ricordi la situazione in cui sono successe queste cose, con una grande buriana sui mercati, eravamo veramente sull'orlo del precipizio, altro che Grecia, e meno male che c'era un santo Napolitano. Dovremmo fargli un monumento, perché è l'unica persona che riesce in queste situazioni a mantenere lucidità. Credo che qualunque cosa ne dica Grillo, ne dicano gli altri, un presidente così non ce lo meritiamo. Grazie Roberto, devo dire che io qua sotto, per esempio sotto gli occhi, ho il grafico dello spread nel 2011. Allora, fino, non so se l'avete presente, fino a giugno c'è stata un'alternanza a livello, diciamo, sotto i 200 punti. Da giugno in poi c'è un'escalation impressionante, e ricordiamoci che lo spread è la misura degli interessi sul debito, cioè dei soldi, delle tasse che gli italiani, dei soldi che gli italiani pagano con le loro tasse, con il loro sangue, per avere finanziato il debito italiano, che non lo ha creato io, ma c'è. E lo spread ha avuto una accelerazione impressionante, dopodiché poi, che sia Bilderberg, che sia la grande congiura internazionale della finanza, che capeggiata da Napolitano, può anche darsi. Possiamo invece credere che i mercati si autoregolano, sono impazziti e comunque ci fanno il conto alla fine del giro. E allora qualcosa bisognava fare con un governo come quello di Berlusconi, che era per sua stessa ammissione indebolito, se no Berlusconi l'8 novembre sera non sarebbe andato a dimettersi sull'onda di questa crisi e a rimettere il mandato nelle mani di Napolitano. Questo dobbiamo ricordarcelo, poi ognuno può giudicare come crede tutta questa vicenda. Giuseppe dalla provincia di Milano, buonasera. Buonasera dottore. Ecco. Con la stessa calma di chi mi ha preceduto, sì, le dico esattamente il contrario. Allora, io ho oltre 70 anni, ho fatto nella mia vita il professionista e consulente di azienda e sono un economista. Volevo fare presente, così almeno anche lei conosce alcuni dati, che a maggio del 2011, ha sentito dottore? Maggio 2011, e ho qui il Sole 24 Ore, che da 40 anni leggo e sono abbonato, a cui do credito solo a questo, scriveva in quel maggio 2011, c'ho qui davanti a me, Fondo Monetario, bene i conti con Tremonti e con Berlusconi, ora la crescita, Poi da giugno in avanti il motivo lo conosco benissimo, perché lo spread è andato lì ed è il Fatto Quotidiano che scrisse certe cose e i tedeschi cominciarono a vendere i loro. Vengo al dunque. No, guardi, posso dire una cosa? Mi scusi Giuseppe, 2012. Giuseppe, una cosa soltanto le dico, perché non è che lo spread l'ha fatto salire il Fatto Quotidiano, perché l'ha fatto salire anche in Spagna. Allora, Italia e Spagna hanno avuto lo spread quasi gemello e quindi era un movimento dei mercati, non è il Fatto Quotidiano, che poi i mercati, come dice Berlusconi, segnano l'ora giusta due volte al giorno come gli orologi rotti. Questo è un altro discorso, ma non è stato certo l'articolo del Fatto Quotidiano, mi scusi, perché sennò avrebbe mosso lo spread anche della Spagna. Dottore, sì. Al novembre 2012, sì. Lei è bravissimo, e mi sono permesso, scusi, di telefonare, perché fa tutte le sere, io lavoro fino alle 8:30 la sera, tutte le sere ascolto sempre Cruciani e quel suo... Balletto, ha un nome anche lui, ha un nome anche lui che si chiama Parenzo, che è irritante. Invece lei è una persona che merita tutto. Ecco, mi sono permesso di chiamarla. No, ma lei deve dire quello che pensa, assolutamente. Figuriamoci. Il 2 novembre 2012 lo stesso Fondo Monetario Internazionale scriveva: bene Monti, ora si attivano le misure esattamente uguale a quelle di un anno prima. Maggio 2013, e poi ho finito. Maggio 2013, sempre il Sole 24 Ore, con la figura anche di Monti e di Prodi, scrive: deficit italiano in regola, ora la UE chiede riforme. Allora, lasciamo che la gente, se qualcuno sta ascoltando, vada a documentarsi. Seconda cosa, mi dispiace di dover intervenire, mai l'avrei pensato, di smentire lei, me lo permette dottore. Formigoni ha detto una frase a riferimento a Fazio, sì, che il suo costo è pari a quello di 5.000, sono pienamente d'accordo, di 5.000 operai. Lei ha risposto dicendo che però Fazio fa il 20% di share. Se lo lasci dire da me, che cosa succederebbe se per una settimana facessero parlare per lo stesso periodo 5.000 operai d'Italia in televisione dei problemi che stiamo attraversando noi? Forse faremmo il 21%. Questa è una bella provocazione, Giuseppe, l'accetto, anche se non ho capito la conclusione del suo ragionamento sulle dichiarazioni e i commenti del Sole 24 Ore a Monti. Quello non l'ho capito, non so se in 30 secondi mi vuol dire qual è la conclusione di quel ragionamento. Dottore, non c'erano assolutamente le motivazioni fiscali, economiche, finanziarie, quello che vuole lei, di mandare a monte l'Italia, e compreso anche Berlusconi evidentemente. Ma perché mandare a monte l'Italia? È stato cambiato il governo, Berlusconi si è dimesso, non è mai stata mandata a monte l'Italia. Da lei eravamo sull'orlo, eccetera. Essere sull'orlo, io che ho salvato aziende in 42 anni, io ho salvato aziende, essere sull'orlo vuol dire che non hai più forse ritorno. A dicembre non hai più forse cosa, non hai più 2011, forse cosa. Gli stipendi li presero infatti, tutti, mia nuora che fa l'insegnante prese la tredicesima, cioè, senza andare a chiedere aiuto ad alcuno. Era tutto un bluff. E salutiamo l'onorevole Maurizio Bianconi di Forza Italia, buonasera. Buonasera a voi, anzi a lei. Eccoci qua. Allora, che cosa ne pensa lei, ci dica la sua, del comportamento di Napolitano? Perché alla base poi c'è una, come dire, una valutazione che il suo gruppo ha dato di non sostenere la mozione, diciamo, nel comitato per l'impeachment da Napolitano, e quindi evidentemente di non ritenere così grave la posizione di Napolitano da meritare un voto per l'impeachment. Però molti colleghi di partito non la pensano così. Qual è la sua posizione, Bianconi? Io sono stato, come lei sa sicuramente, il primo a denunciare il comportamento di Napolitano un ferragosto di 4 anni fa, e lui si scagliò contro di me, mettendomi un po' alla berlina e aspettando scuse che non arrivarono. Secondo me Napolitano legge una Costituzione tutta sua, tutta, che lo fa centrale nella posizione politica italiana. Secondo me si era messo di buzzo buono per far fuori il centrodestra Berlusconi, articolando al meglio tutte le sue capacità e i suoi poteri, e quindi questo poi ha finito per fare. che poi tutto questo possa racchiudersi in una condizione di stato di immessa di stato d'accusa è un altro discorso, non un discorso tecnico. Io che ero grosso modo favorevole a presentarla io una richiesta di impeachment, mi sono poi trovato di fronte a problemi giuridici che è inutile che io la stia a spiegare qui, piuttosto complessi. E quella Cioè, non è una valutazione politica quella di mettere in stato d'accusa. Mi faccia fare la domanda. È una valutazione politica di mettere in stato d'accusa il presidente. Poi c'è una valutazione tecnica, costituzionale, giuridica successiva per decidere se questa messa in stato d'accusa è giusta oppure no, è sbagliata oppure è corretta. Però politicamente, perché non esprimere una posizione? No, dottore, non è così. Non è così. Politicamente, secondo me, Napolitano era da impeachment fin dal 2010, per essere chiari. Ecco. Poi quando lei deve fare l'impeachment deve comunque sporcare un foglio e scriverci sopra qualcosa. Questo qualcosa non è più politico, diventa giuridico, ed è lì che arriva la valutazione difficile, diciamo. Cioè, non così. C'erano le pezze d'appoggio, diciamo. Esatto, non c'è, perché è un procedimento obiettivamente e anche da un certo punto di vista giustamente complesso, se no tutti ne farebbero uso. Ricordo che l'impeachment fu minacciato anche per Cossiga, e Cossiga non ci stette e si dimise prima, ma anche lì però in effetti un foglio di carta non fu sporcato, se non ricordo male. Però insomma, no, da un punto di vista di politico, altro che impeachment. Ecco. Io sono di quelli che ho la coscienza a posto da questo punto di vista, nessuno mi dava seguito, tutti lo consideravano e lo considerano magari ancora un padre della patria. Per me è uno che ha fatto il suo in maniera proprio criticabile. Però come mai è stato rieletto a furor di popolo anche dal suo partito 8 mesi fa? È stato un errore gravissimo. Io non l'ho votato, non ne ho fatto neanche mistero, fra l'altro. Sì. Ed è stato un errore gravissimo, perché è meglio avere un nemico giurato che un personaggio che fa finta di non esserlo. E quindi è 100.000 volte meglio Prodi che Napolitano al Quirinale. 100.000 volte meglio. Ma anche lo stesso Rodotà. Cioè, per cui sai chi hai davanti, ecco. Ma perché Napolitano, diciamo, secondo lei ha incarnato il modo di fare politica? Che modo ha incarnato di fare politica? Un modo poco trasparente. Io non ho una considerazione di Napolitano, come molti miei anche amici di partito, sì, o molti politici, o la vulgata corrente che c'è in Italia, ancorché lei mi consentirà, la vulgata corrente facevano di Monti un dio l'anno scorso di questi tempi. Io stamani, mentre aspettavo di andare in aula, ho sentito un po' di televisioni e ho sentito di tutto su questo Monti, da sguattero, pettegolo, ma ha detto da persone importanti. Che l'hanno sostenuto, tra l'altro, fino a poco tempo fa. L'hanno sostenuto anche in questo caso contro sempre il solito Bianconi, che diceva che questa era la rovina dell'Italia. E chi è che l'ha sostenuto? Quella sera sui giornalisti oggi hanno detto che è stata una sciagura dell'Italia. Ecco, sic transit gloria mundi. Quindi non so se anche per Napolitano si avvia la china dei giudizi negativi. Napolitano è un politico mediocre, trovatosi accidentalmente in un posto importante, che ha gestito con tutta la subdolità tipica della sua posizione politica. Costui nel 56, a 32-33 anni, disse che i cavalli armati a Budapest era una cosa santa e fatta bene. Non è che era un ragazzo di 18 anni, aveva 32 o 33 anni, insomma, non è che le stragi di Budapest a lui andavano bene. Uno che a 30 anni dice una cosa così, a 88 non migliora. Senta, questo però, è, diciamo, anche il mio sì, pensiero, vuole il nuovo, sì, parla del nuovo. C'è Renzi che dice che vamos alla playa, che negli anni 80 se da lei, ma vai via perché sei al tempo di vamos alla playa. Questo al tempo è diventato deputato, quando Nida Pizzi cantava Grazie dei Fiori, sempre lì. Insomma, questo è indubitabile. Senta, però diciamo che anche voi politici ci mettete del vostro, forse, perché adesso, per esempio, stiamo per rivivere una situazione, non dico come quella del 2011, perché è un passaggio, sarebbe un passaggio di consegne interna tra Letta e Renzi all'interno dello stesso partito, però onestamente nessun italiano, credo, capirà o capirebbe o abbia ancora capito perché ci deve essere questa staffetta nello stesso partito, perché uno ha vinto il congresso, è una cosa che fa perdere un sacco di tempo, forse può allungare la vita alla legislatura, forse, una legislatura che è nata, tutti l'hanno detto, tutti, che era una legislatura di transizione, momentanea, un governo di larghe intese per un periodo. Allora, di nuovo però, Napolitano sta gestendo questa situazione per fare questo cambio tra Letta e Renzi? No, secondo me le cose non stanno così. Intanto devo dirle che questa situazione dipende dalla politica in generale, forse, ma sicuramente dipende dal PD, che è un po' d'anni è in congresso permanente, perché fa i segretari e li disfa, fa i segretari e li disfa, dice che è diventato democratico, ma lei sa che è proprio dei partiti rivoluzionari che fanno i ministri e poi subito fucilarli, no? E così lo fanno i segretari, prima li fanno e poi li fucilano. E Renzi, secondo lei, è prossimo anche lui alla fucilazione? Renzi è un segretario accidentale, dottore, perché lui studiava da primo ministro, non da segretario. Poi gli hanno detto, guarda, che se vuoi fare il primo ministro in questo partito, bisogna che tu vinca il congresso. Siccome il congresso non era capace a vincerlo, ha inventato una cosa che fa girare nella bara tutti i cultori della politica. Ha fatto un congresso con le primarie. Cioè, un congresso che è l'assemblea dei soci, l'ha fatta invece decidere dai consumatori. Quindi gli è riuscito anche questa giravolta qui, che sarebbero gli elettori. E va bene. E allora è diventato per un pochino segretario del PD. Però non è l'abito suo. Lui deve fare il primo ministro, se no non può fare il segretario del PD e il capo dell'opposizione al governo che PD sostiene. Quindi va a cercare la sua collocazione naturale, che è quella di Presidente del Consiglio. La staffetta interna, appunto, sono questioni del PD, però non ci trovo niente di scandaloso, perché Letta non l'hanno eletto gli elettori. Gli elettori avevano eletto Bersani primo ministro, Bersani non ce l'ha fatta. Quindi dice lei, già Letta è un torto. Già Letta è un premier di è una forzatura rispetto a quello che è stato l'obiettivo. Non che Matteo mi sia particolarmente simpatico, perché lo trovo troppo arrampicatore e oltre ad altri difetti, insomma, è uno che vuole arrivare, pensa parecchio ai cavoli suoi. Se non fosse alla radio userei un'altra frase, ma quella che ha usato su Twitter. Quello che ha fatto l'altro sul mio Twitter, esatto, sì. Quindi basta sostituire cavoli con un'altra parola simile. Sì, esatto. Lui pensa solo a quello. È semplicemente più volgare, ma il concetto. Da quando l'invetto, io lo conosco da quando l'invetto, sicché ha sempre fatto i cavolacci suoi. E quindi, però, lui lo conosce da quando era bimbetto? È per forza, 37 anni, lo conosco da quando aveva 16, quindi faccia lei 16-17, via. Perché lo conosce da quando aveva 16? Perché lui è fiorentino, io ero consigliere regionale, capito? E quindi l'ha visto crescere politicamente? L'ho visto crescere politicamente, sì, l'ho visto crescere politicamente, l'ho visto fare il presidente. Ma lei dove militava, scusi, Bianconi? Lei era consigliere... Là strada, in via Martelli, io in un palazzo e lui in un altro. Lei, Bianconi, quando era consigliere regionale e Renzi era piccolo, in che partito militava? Io ero in Alleanza Nazionale. Era Alleanza Nazionale, benissimo. Sì. Senta, in però Alleanza Nazionale, poi da Alleanza Nazionale ho fatto PDL, poi ci hanno detto di andare in Forza Italia e abbiamo sbaraccato un'altra volta, poi vediamo dove ci dicono di andare. Lei ha detto Renzi non mi piace, però la domanda è aspetti. Mi piace, non corrisponde ai miei canoni di politica, non mi piace in questo senso. Chiaro, la domanda gliela faccio adesso, mi risponde dopo un break di 30 secondi. A questo punto però, un governo Renzi, voi lo sosterreste, voi di Forza Italia, visto che sembra che il passo sia breve? Eccoci qua di nuovo con Maurizio Bianconi, onorevole di Forza Italia. Bianconi, la domanda era, gliela rifaccio. Lei ha detto, vabbè, Renzi l'ha criticato, è una rivista, eccetera, eccetera. Però, insomma, sappiamo che Renzi è anche democratico, è l'uomo che, secondo alcuni, ha ridato linfa anche a Berlusconi con questo accordo, intesa possibile, sulla legge elettorale, e è filtrato, insomma, che potrebbe esserci una disponibilità a sostenerlo in caso in cui il Quirinale gli affidasse l'incarico di governo. No, non penso che siano così stolti a Forza Italia chi è che decide le politiche del partito. insomma, c'è una misura tutto. Diciamo che ognuno farà la sua parte, lui farà la maggioranza e noi faremo l'opposizione. Quello che è cambiato con Renzi, e questo è vero, è che ha deciso che i suoi contraddittori di centrodestra non sono diavoli, cioè sono persone con le quali si può parlare, anche il pregiudicato, il condannato e lo stupratore di minori Berlusconi, insomma, ecco. Lo scrive Ferrara pochi minuti fa proprio sul Libero Online, c'è un'intervista al direttore del Foglio che dice, beh, insomma, potrebbe essere sicuramente è il leader del centrosinistra più gradito a Berlusconi, quindi perché no? È quello che ha riportato alla normalità la dialettica politica, dicendo una cosa che nel tempo dei tempi era elementare, ma è che ora è diventata strana, e cioè, per esempio, che le regole del gioco si fanno insieme. Io ho fatto lo statuto in Regione Toscana, ho fatto la famigerata legge elettorale toscana, ma l'abbiamo fatta insieme, destra e sinistra, ce la siamo votata tutti e tutti hanno votato lo statuto. Cioè, le regole del gioco si fanno insieme, poi chi vince vince, chi perde perde. Quindi rinormalizzare, ristabilizzare un rapporto maggioranza-opposizione non significa andare a sostenere è quello che fa la maggioranza, insomma, se no veramente dopo c'è una confusione che non ci si capisce niente. Già, però potrebbe essere un'opposizione non, come dire, non con le barriere alzate, insomma, non con l'opposizione è sempre con le barriere alzate quando non fa le cose i governi che ci piacciono. Questo succede, qui si è perso un po' veramente la via del Signore, perché io tutta la vita meno. Però mi scusi Bianconi, mi scusi, ma se la legislatura si caratterizzasse per questa intesa sull'abolizione del Senato, sulla legge elettorale e con quel tipo di riforme che sono state fatte da Renzi e Berlusconi, questo potrebbe, cioè vi vedrebbe favorevoli, l'appoggereste questo, no? Ma queste sono regole, dottore, sono regole, sì. Non sono scelte politiche. Poi bisogna vedere quanto ci dà le piccole e medie imprese, poi bisogna vedere come tratta l'Europa, poi bisogna vedere cosa dice col fiscal compact, poi bisogna vedere come rimedia il casino che ha fatto la Fornero con i disgraziati che ha lasciato in giro, poi bisogna vedere come si comporta con le banche. Mi ha detto tante cose e via via, quando si vedrà si deciderà, lui è maggioranza e noi siamo opposizione. Poi se siamo per l'abolizione del Senato lo siamo, per esempio io non sono per il Senato inventato da lui, che è la sede dei suoi amichini sindaci, perché c'è già Lanci che ci pensa, che non è un bischero questo ragazzo, capito? Non è proprio scemo come sembra, c'ha la faccia un po' a coglione, ma non è. Lei, che anche si sente anche al microfono, insomma, si lascia andare anche a qualche espressione, però su Twitter è sfrenato. Napolitano, Monti Passera contro Berlusconi, nessun complotto, esecuzione di ordini superiori, target raggiunto, massacrare il paese. Di chi sono questi ordini superiori, mi scusi? Io ho sempre sostenuto che Monti è venuto a fare quello che è venuto a fare in virtù di un rapporto inossidabile che egli ha con Goldman Sachs, la finanza americana, è convissuto addirittura come presidente, come European Chairman, quindi presidente. Però scusi Bianconi, anche lei col complotto, ma non è stato anche Enrico Letta, non è stato anche Gianni Letta consulente di Goldman Sachs? Bianconi, anche Letta è stato consulente o no? Ma scusa, faccia parlare me o no? Come ha detto, scusi? Anche Letta, Gianni è stato consulente. No, Gianni Letta è un uomo della Trilateral, anch'esso. Io non mica detto, ma Gianni Letta non è Silvio Berlusconi. Insomma, Mario, è stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Scusi, ha avuto un ruolo di primissimo piano al governo. Anche Enrico Letta. Sì, ma lei vede, lei ha fatto... No, Gianni Letta, io dico Gianni Letta. Anche Enrico è della Trilateral. Voglio esprimere un concetto e poi finisco quello che mi ha chiesto. Cioè, tra gli esecutori poi dell'ordine di Monti c'è anche Gianni Letta. Secondo me non c'è nessun complotto. Parlare di complotto è parlare dei geni del male, è un'opinione ieratica, religiosa, ideologica delle posizioni. Questi sono personaggi che hanno un'idea precisa. Sì. L'idea precisa è il mercato libero assoluto in tutto il mondo, la libertà sfrenata della finanza, la fine degli ostacoli della politica alla libertà di mercato, la fine degli ostacoli degli stati nazionali alla libertà di mercato. Sembra di sentir parlare un no global. Senta Bianconi, ma perché lei non ha fatto la guerra anche contro Gianni Letta, che è stato consulente di Goldman Sachs? Queste sono sono cose del mio partito che ho curato nel mio partito. Ma le ha curate queste cose? In che modo? Le ho curate, sì, sì, con successi evidenti, come le può notare, ma insomma le ho curate. Cioè, ironico. Certo. È andata male. Però quindi il suo partito ha una responsabilità in questa esecuzione scientifica degli ordini superiori, nella persona, diciamo, per esempio, di Gianni Letta. Non ha una responsabilità diretta, diciamo, però che ci sono stati uomini del mio partito che hanno lavorato per questo. Se vuole le faccio anche i nomi. I primi tre grossi che mi vengono in mente sono Fini prima, Tremonti poi, Frattini sempre. Va bene, Bianconi, grazie. Auguri, buona serata. Lei è un po' perplesso, ma se vedrà, no. se riflette, vedrà che Bianconi non dice cazzate. No, Bianconi, non me la metta così su un piatto d'argento, perché ho qui l'elenco dei suoi tweet delle ultime ore. Qualche cazzata l'ha sparata, dai. Io quando scrivo sono sempre convinto di quel che scrivo. Vedi, sì. non è come si pone l'asserzione, e bisogna vedere su che cervelli si entra, capito? Renzi ha dato a Letta 15 giorni come alla Colf. Questa è carina. Esatto. Questa fa ridere. Poi ce n'è qualcuna pesantuccia, per esempio, no, su Napolitano. Ma poi segue come sì. Dice, e poi siamo in attesa del ben servito, mi pare. No, adesso io ho visto questo. Sì, no, è così c'è scritto. Come alle Colf. Sì. Va bene, No, ha ragione. Sì, segue sì. Ben servito, era nell'altra pagina. Sì. Mi scusi lei. Poi cosa c'è? Ce l'ha anche Michela, credo che sia Brambilla. Sì, lì. Alle politiche sociali. È una battutaccia. Tutti uguali, poveri animali. Parola d'ordine, fare sintesi. Sì, questa è una battutaccia sulla Michela. Perché non le piace la Brambilla? No, mi è simpatica, gli do noia però. Cioè, lei ama dare fastidio così a prescindere, insomma. No, io così, per una battuta, fa da buon toscano, si farebbe spellare. Una un'amicizia, cioè, questo rientra nel personaggio. Questo poi per un'altra, questo non così. Un'altra, diciamo, pulita. Se Napolitano è la prima carica dello Stato, Grasso può ben essere la seconda. Sì, io certo. Ci ho scritto anche ho fatto un comunicato stampa ieri su questo. E invece quella quello pesante. Ha fatto Grasso è una cosa inqualificabile. Quello che ha fatto Napolitano non è migliore, quindi sono uno degno dell'altro. Poi c'è una risposta a Giorgia Meloni: a chi t'appelli, a Napolitano? Hai cambiato pusher? Al comunista perfetto interessa solo farci il C puntato, costi quel che costi. Esatto, sono convinto io che il comunista perfetto, quello sì. Di Budapest che le dicevo. Però scusi, ma ieri la Santanchè mette in cima la sua cultura e l'obiettivo politico. L'obiettivo politico di Napolitano è sempre stato massacrare il centro-destra e ecco, vedi, lei la mette sul piano politico e su questo la certo, seguo. Io chi non seguo politico. È per esempio la collega Santanchè che ieri sera ha detto a proposito di Napolitano: fa quel che fa, è un'assicurazione sulla vita il suo ruolo al Quirinale, perché Zucconi faceva presente che a 90 anni forse anche Napolitano avrebbe voluto farsi da parte. Lei ha detto un'assicurazione sulla vita, che detto lei, a un novantenne, di un novantenne fa quasi ridere, però lei non conosce novantenni. Sì. Uno più vecchio è e più si attacca alla seggiola. No, quello un conto davvero. Sì, ma non per manie di arricchimento personale, quello che sembrava. No, perché si deve arricchire personalmente? Piglia già 228.000 euro netti, sta in un palazzo di Città Marè, cosa vuole? È già ricchissimo. È dal 51 che è sulle nostre spalle, quindi. Va bene, grazie Bianconi, buona serata. Grazie a lei, grazie. Arrivederci. Facciamo il TG1. Ore decisive per il governo, Letta vede Napolitano, poi annuncia domani la mia proposta per il patto di coalizione. Convincerò tutti. Renzi, il governo ha le batterie scariche, o si ricarica o si cambia, ipotesi staffetta, Alfano avanti con Letta, il PD chiarisca. Bocciata la richiesta di impeachment per Napolitano, Forza Italia non vota, Grillo insiste, si dimetta. Muore a 14 anni dopo essersi lanciata dal tetto di un albergo nel Padovano, vittima del bullismo su internet. 'Ndrangheta ha sgominato traffico di droga tra Italia e Stati Uniti, 26 arresti decisivi, gli agenti infiltrati. Il caso Svizzera, monito di Bruxelles, se non entrano liberamente le persone, non entrano i capitali dall'Europa. Addio a Shirley Temple, è morta a 85 anni, la bambina prodigio del cinema americano, star negli anni 30, famosa in tutto il mondo per i suoi riccioli d'oro, protagonista di una quarantina di film, poi la carriera diplomatica. Andiamo a sentire i vostri interventi, cari ascoltatori. Cominciamo da Iorio, che ci chiama da Modena. Sì, pronto? Pronto, buonasera, tocca a lei. Buonasera, io niente, ho telefonato perché ho ascoltato all'inizio della trasmissione, sì. Ho sentito il sindaco di Bergamo. Di Castegnato, Castegnato, provincia di Brescia, sì. Ecco, che hanno trovato tutto quel marciume sotto l'autostrada. Sì. Ecco. E mi dispiace, miseria, come italiano, perché qui ci stiamo sempre lamentando di tutto quello che succede, poi dopo, quando succedono queste cose, miseria, c'è da andare a scavare, a spendere, poi c'è la terra dei fuochi, anche lì scava, sotterra, qui nessuno sa niente, nessuno fa niente, e poi abbiamo l'Ilva, che stanno morendo con dei tumori. Cioè, ma io mi chiedo, come italiano, io parlo per me, come italiano, mi vergogno della classe politica che abbiamo, perché ci sta bene come un vestito nuovo, come ha detto prima la signorina. Allora questi politici ci stanno bene come un vestito nuovo, perché non sono capaci di tenere pulito questo bel paese che abbiamo, un paese che potremmo lavorare 4 ore e ci stiamo scannando in autostrada con i camion, alzarci presto alla mattina, potremmo fare 4 ore, e questi politici ci dicono di tirare la cinghia. Dobbiamo tirare perché, la cinghia. Perché, scusi, Iorio, potremmo fare 4 ore? Perché abbiamo un paese che è bellissimo. Potremmo fare 4 ore, abbiamo il mare, il mangiare, abbiamo l'invenzione, abbiamo le cose più belle. Qui in Italia abbiamo tutto. Potremmo fare 4 ore tutti quanti, senza stare a fare 20 ore su un furgone o su un camion. Sì. Abbiamo la classe politica che ci dicono, cari italiani, dovete tirare la cinghia. Mentre loro cosa fanno? Delle pensioni a non finire. Va bene. Nelle regioni mangiano, rubano e fanno tutto, e noi siamo qui come dei poveri. Lo posso dire, signori, ci stanno bene questa classe politica, ci stanno perfettamente addosso. Grazie Iorio, salutiamo Antonio Di Pietro, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, qua non so più come presentarlo, lei è presidente dell'Italia dei Valori, no? Adesso l'Italia Valori, sono però oggi è tornato avvocato, sono come avvocato diretto. Si è messo a fare l'avvocato, ma tecnicamente non ha dovuto sostenere qualche passaggio, cioè lei era già passando da magistrato, il passato che aveva alle spalle, può fare l'avvocato in qualunque momento. Carta canta, io a suo tempo, quando sì. Mi laureai, fece anche la pratica legale e sostenne anche superando l'esame d'avvocato. Ciò detto, comunque sia, avendo fatto e superato l'esame da magistrato, nel momento in cui mi sono messo potevo accedere direttamente alla magistratura, ma ripeto, io sono all'avvocatura, cioè alla professione d'avvocato. Alla professione d'avvocato, sì, ma ripeto, sì. Io ho superato anche il concorso da magistrato, perché poi alla fine sarò contadino, ma anche carte larghe e cervello fisso. Adesso valuteremo insieme a lei se non le conveniva rimanere a fare il contadino, invece si ricandida alle europee, torna in aula al processo sulla compravendita dei senatori come avvocato. Di Pietro. Insieme a Antonio Di Pietro, oggi ha esordito, oggi, no? Come avvocato nel processo sulla compravendita dei senatori a Napoli, avvocato per l'Italia dei Valori, che si è costituita parte civile, così? Così, mi sono costituito parte civile in nome e per conto di tutti quei cittadini italiani, sì, che sono state vittime di un atto davvero criminale, se sarà riscontrato in sede di dibattimento, vale a dire che da una parte c'è stato un Giuda che per 30 denari, una volta erano 30 denari, adesso sono stati 3 milioni di euro, tra i tempi di Gesù Cristo e mo sono passati 2000 anni, e ha venduto la cosa più importante che aveva, cioè la libertà di voto. Dall'altro c'è stata una persona che era capo dell'opposizione, poi è diventata anche capo del governo, che adesso addirittura vuole riformare la Costituzione, vuole essere un padre costituente, che per far cadere un governo in carica in un paese democratico 3 milioni di euro, questa persona secondo l'accusa si chiama Silvio Berlusconi, paga 3 milioni di euro, dico 3 milioni di euro per corrompere questo senatore. Che si chiama Sergio De Gregori. È un omicidio politico questo, non è un fatto da niente. Per questa ragione io ho ritenuto un mio dovere di mettere addosso la toga, certo da avvocato di parte civile, ma nel cuore da pubblico ministero, proprio per poter difendere quel diritto al voto libero dei cittadini e quindi ad avere una democrazia vera. Non dica però così che nel cuore voleva fare il pubblico ministero, perché se no si alimenta ancora la confusione, perché, ripeto, poi non lo so se c'è una questione di opportunità o meno, però da magistrato a politico, adesso avvocato e fra qualche mese candidato alle europee. Non so, c'è una differenza fra fare, io in un'aula di giustizia faccio ciò che mi impone il mio dovere professionale. Sono avvocato di parte civile, sì. E l'avvocato di parte civile è colui che difende i diritti della parte offesa. Quindi la parte offesa, in questo momento, non lo dico io, lo dice il decreto di rinvio a giudizio, è il Senato della Repubblica, e per esse quei cittadini italiani che hanno votato quel Parlamento, hanno voluto quel governo, e il governo Prodi, ripeto, è caduto non per un atto politico, ma scopriamo da questo capo di imputazione potrebbe essere caduto per un atto criminale. Senta, ma chiarito questo aspetto, cioè il suo ruolo, no? Adesso Berlusconi è accusato di corruzione, se non sbaglio, in questo processo. È accusato di corruzione per aver pagato una tangente tra 3 milioni, 3 milioni di euro a un senatore a De che ha venduto il suo voto De Gregorio, e che ha pure patteggiato la pena. Perché De Gregorio ha patteggiato un anno e 8 mesi. Berlusconi invece che cosa rischia? Qual è la condanna che rischia? No. Berlusconi, in termini tecnico-giuridici, come al solito, rischia una prescrizione o una assoluzione, ma questo lo dovrà dimostrare lui, o una condanna in primo grado. Il problema è che lo stesso Berlusconi, quando era al governo, aveva una maggioranza, che cosa ha fatto? Ha fatto una legge che ha dimezzato di fatto i tempi di prescrizione. Cosa vuol dire? Lo dico a chi ci ascolta, mia sorella per tutti, innanzitutto. Che in un paese normale dovrebbero fare leggi per far fare prima i processi, invece sono state fatte leggi per non farli più i processi prima del tempo. Il risultato è che nel 2015 questo processo va in prescrizione, e quindi tra primo grado, secondo grado, terzo grado e cavilli vari si rischia di arrivare probabilmente che non è finito il processo al terzo grado di giudizio, che ancora una volta si dirà che nei confronti di Silvio Berlusconi non si è potuto procedere perché è intervenuta la prescrizione. Ma a me, come cittadino italiano, a me come responsabile dell'Italia dei Valori, mi interessa sapere chi ho davanti, una persona che non commette reati o una persona per cui c'è una prescrizione e quindi non si è potuto sapere. Mi auguro che almeno una sentenza di primo grado ci sia, e in questo senso oggi sono intervenuto in aula per far comprendere, e il Tribunale mi ha dato ragione dicendo che la notifica era corretta, perché oggi, non so se lo sanno chi ci ascolta, ma oggi è stato appena iniziato è stata fatta già un'eccezione. La domanda: qual è l'eccezione che è stata fatta? È stata fatta sulla domicilio di Berlusconi. La notifica era sbagliata. Perché era sbagliata? Perché si dice che era stata fatta ad Arcore, non è il luogo dove dimora abitualmente, e sa che ci andava a fare ad Arcore, ci andava una volta ogni tanto giusto per i fatti suoi. Dice che la notifica è stata fatta, un'altra notifica, a certa signora Marinella, che non aveva è la sua segretaria personale da 20 anni, e si è qualificata come persona addetta al ricevimento degli atti. Scritto nel verbale. Ma scusi, ma questo rischia di far saltare quindi la vostra costituzione come parte civile? Non ho capito. No, siamo già stati. No, attenzione, ha fatto bene questa domanda. Non confondiamoci. Il domani si deve discutere la possibilità delle parti civili che hanno chiesto di costituirsi oggi. L'Italia dei Valori, io personalmente, ci siamo costituiti all'udienza preliminare, cioè ci siamo costituiti mesi fa, siamo già parte civile, per questo io ho potuto parlare. Anzi, le dirò di più, che forse pochi sanno: il Senato oggi ha chiesto di costituirsi parte civile. Io ho scritto una lettera aperta a Grasso affinché lo facesse, e Grasso, da ex collega, l'ha fatto assumendosi le responsabilità. Però il fatto che l'ha fatto oggi ha rischiato e ha messo il Senato in condizione di non poter usufruire di un diritto dovere che aveva e che ha, cioè quello di poter presentare la lista testi 7 giorni prima dell'inizio del dibattimento. Cioè, però, andava fatto prima come avete fatto voi. Però per non sbagliare, per non sbagliare, io quando ho presentato la lista testi ci ho inserito anche i testi che avrebbe dovuto inserire il Senato, per cui... Siamo coperti. De Gregorio ci ha parlato da quando è iniziato il processo, per esempio? No, non ci ho parlato, ma De Gregorio, ripeto, non è solo lui, perché insieme a lui tanti altri hanno tradito l'elettorato. Poi si parla di lui perché ha tradito l'elettorato dell'Italia Valori, ma in realtà sono stati tra il 2006 e il 2008 e poi dal 2008 al 2010 ci sono state 159 persone che hanno cambiato. E questo perché? Perché c'è una norma di, diciamo così, di dignità nella Costituzione. Il divieto di obbligo di mandato, cioè uno deve poter votare liberamente, ma nessuno poteva immaginare dei nostri padri, sì, però, costituenti. Ho capito Di Pietro, che... però De Gregorio è stato clamoroso perché era un suo uomo, era un suo uomo, è passato, è il capo, no, diciamo, è la pietra di paragone di questo scandalo ed era il suo uomo e quindi è chiaro che... Io mi sento tradito più degli altri e per questo mi sono assunto la responsabilità di andare in aula a chiedere il risarcimento dei danni per conto degli italiani che come me sono stati traditi. Vorrei sapere perché gli altri partiti, che pure sono stati traditi anche loro, non si sono presentati al dibattimento. Io personalmente avrei preferito che anche il presidente Prodi, perché il governo Prodi è caduto non per un atto parlamentare, ma per un atto criminale, a quanto cercato di imputazione, si poteva costituire pure lui. Senta, Di Pietro, un'altra cosa ce la può dire, la sua opinione sulla richiesta di... come ha detto, scusi? Perché no? Ah, ecco, sì. Avevo usato un'altra espressione. su questa richiesta di impeachment del Movimento 5 Stelle che è stata respinta, lei cosa avrebbe votato se fosse stato in Parlamento? Guarda, io mi sento uomo delle istituzioni, quindi come prima cosa rispetto la norma di legge, se non mi piace cerco di cambiarla. Quando i nostri padri costituenti hanno fatto la norma penale dell'impeachment, hanno pensato a un capo dello Stato che si venta una potenza straniera, a un capo dello Stato che mette in piedi una forza armata per sconvolgere e coinvolgere il paese, cioè non hanno pensato a un capo dello Stato che in nome di una moral suasion parteggiato per una parte o per l'altra. Io personalmente sono stato il primo, con tutto il rispetto ai Movimenti 5 Stelle, a contestare il capo dello Stato e soprattutto a contestare il fatto che Monti sia andato lì con la maggioranza del PD e del PDL, tanto è vero che sono fuori dal Parlamento proprio perché mi sono opposto e imposto rispetto a tutto questo. Quindi, ma nonostante le critiche, sì? Una cosa è non condividere ciò che fa il capo dello Stato, altra cosa è fare un processo per attentato alla Costituzione che i nostri padri costituenti hanno scritto per un'altra cosa. Però la risposta è una sola, che non l'ho dato io, l'ha dato Beppe Grillo quando qualcuno gli ha chiesto in faccia: ma perché l'hai fatto? E lui ha detto: è una trovata pubblicitaria a fine elettorale. Quando l'ha detto Grillo questa? L'ha detto in una delle sue discussioni. Quindi, nonostante le critiche forti, lei non l'avrebbe votata questa cosa qua. Però la cosa estera, mi scusi Di Pietro, la cosa estera ci starebbe, perché c'è la lettera della BCE, secondo alcuni c'è la mano della Germania dietro. Torno a ripetere, io non condivido assolutamente quello che ha fatto il capo dello Stato, non è che io ho votato contro. Vorrei ricordare che mentre tutti ne discutono, quando all'epoca venne il governo Monti, l'unico fesso, perché all'epoca me ne dissero di tutti i colori, che io mi mettevo contro questa coalizione di necessità, Oggi mi pare che tutti dicono che quella coalizione non si doveva fare, ma una cosa è cosa ha fatto il capo dello Stato, altra cosa è dover dire che è un impeachment. Io personalmente, torno a ripetere, condivido molto delle battaglie che fa il Movimento 5 Stelle, anche questa è stata una battaglia importante che il Movimento 5 Stelle ha fatto, perché almeno ha fatto capire agli italiani va bene. Il capo dello Stato non ha fatto sempre il terzo imparziale. Se vuole sapere un'altra cosa, io sono anche d'accordo con il Movimento 5 Stelle quando si arrabbia perché le hanno tolto la parola e non volevano far sapere agli italiani che nell'ultima legge che hanno approvato in Parlamento 7 miliardi lo danno alle banche invece che darlo ai poveri cristi. Quindi io personalmente voglio dire, con tutti i rispetti al Movimento 5 Stelle, sto portando avanti da una vita queste battaglie, tanto è vero che ho scritto una lettera aperta a Grillo dicendogli: T'hanno messo sotto processo due volte, stai tranquillo, a me me ne hanno messe 353. Dai, un'ultima cosa, Di Pietro, le voglio chiedere in vista della candidatura alle europee, cioè a fare il contadino, insomma, lei con tutto il rispetto, l'età della pensione ci sarebbe quasi 64-65 anni, quanti anni? Non ce la faceva stare fermo. Mai come in questo momento c'è di riarmarsi di buona volontà e imbracciare il fucile elettorale per dire ai cittadini, io attraverso Italia dei Valori, che al netto di qualche tradizione di troppo si ripropone, chiedo agli elettori un voto sul partito che rinasce togliendosi queste scorie da torre. Soprattutto chiedo agli italiani di ridarmi quella fiducia che mi hanno dato un tempo per permettermi di andare in Europa e rilanciare i temi della legalità e i temi di una legislazione europea che a monte, come ha detto il commissario Malmström, risolva i problemi della corruzione in Italia, perché in Italia, come vedi, si va in Parlamento e spesso si fa le leggi per conto suo, non per conto degli italiani. Allora andiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori, all'800 24 00 24. Chi si fosse collegato solo in questi istanti, ricordiamo che stasera Giuseppe Cruciani non c'è semplicemente perché è a letto con l'influenza, quindi auguri a Giuseppe, e ci sono io, Alessio Maurizi, a tenervi compagnia ancora per 20 minuti scarsi con i vostri interventi. Luca dalla provincia di Pisa, buonasera. Buonasera Maurizi, è un onore dopo Di Pietro e lo stimo molto. Senta, sì. Volevo rispondere alla sua domanda fatta inizio trasmissione, cioè come mai oggi Monti è tranquillo praticamente e Friedman ridacchia su quello che sembrerebbe un golpe, uno scandalo, un colpo di Stato. Io ho una mia teoria. Sì. Cioè, la memoria corta degli italiani. Cioè, forse non ricordiamo cosa è successo nel 2011. Sì. Cioè, mi faccio una piccola visione dall'alto. Sì, no, non ci faccia tutti i tre anni. No, in brevissimo. In breve, sì. Cioè, a febbraio pochi ricordano che Berlusconi andò in TV a reti unificate, sì, a dire che bisognava dare una scossa all'economia. Cioè, lui diceva che la crisi non c'era, ma in realtà lo sapeva che c'era. Poi ci furono mesi di lotta fra Tremonti e Berlusconi, immobili, un po' come ora Letta, insomma, praticamente. Ma a luglio, giornali, telegiornali e tutto, si parlava dei ministeri al nord. Cioè, sì. A luglio 2011 in Italia l'argomento principe non era la crisi o le manovre economiche, erano i ministeri al nord. Poi ad agosto arrivò la manovra lacrime e sangue, la lettera di Bruxelles, che Tremonti poi disse da Santoro che secondo lui partì addirittura da Roma. Sì, no, ma che politicamente il contesto fosse quello, è vero. Il punto è capire e dire, e poi esprimere un giudizio, se invece, dato questo contesto politico, l'operato di Napolitano abbia infranto qualche regola, qualche dettato costituzionale, come dice il Movimento 5 Stelle, oppure no, come ha detto anche Bianconi sostanzialmente di Forza Italia poco fa ai nostri microfoni, ha criticato politicamente tutto. L'azione di Napolitano, ma non dal punto di vista costituzionale. Ma dal punto di vista anche costituzionale, secondo me c'è stata una manovra di palazzo, qui volevo arrivare, ma c'era Berlusconi, ne era non solo consapevole, sì, ma complice. Cioè lui sapeva che la situazione economica era tale che bisognava fare delle cose che la sua maggioranza non gli permetteva, tanto è vero che con la Lega erano battaglie su battaglie dopo la lettera di Bruxelles di agosto. Vabbè. Quindi oggi Monti è tranquillo e Friedman ridacchia, perché Friedman, da buon finanziere, insomma da esperto di finanza, sa benissimo qual era la situazione, le manovre. Va bene, grazie Luca, abbiamo capito, grazie mille. Andiamo con un altro intervento, Fabrizio da Torino. Buonasera, Fabrizio. Fabrizio non ci sente, Vittorio dalla provincia di Roma, allora, buonasera. Eccomi. Eccolo. Eccomi, senta, io non mi voglio iscrivere all'elenco dei grandi politologi italiani, io vi ringrazio perché mi date l'opportunità di togliermi un peso sullo stomaco. E voglio esprimere la massima solidarietà al nostro presidente, e lo faccio con un grande sentimento patriottico, e dico anche che fortuna che ci abbiamo, forse l'ultimo dei moicani, questo presidente lucido che governa il caos che altri hanno fatto, e adesso quelli che hanno fatto il caos l'attaccano. Stiamo veramente al paradosso. Giocano questi signori che non sanno, a cominciare da quel politico che ha citato poco fa, Bianconi, che parla di impeachment, poi però quando Lui stesso dice, la contraddizione proprio si fa persona, dice: nel momento in cui però dovevo scrivere le motivazioni dell'impeachment non c'erano le normative di riferimento. Ma secondo lei è possibile vabbè, quello che dice lei però vale soprattutto per Forza Italia, perché comunque ha votato Napolitano, lo ha sostenuto, sono stati al governo, anche al governo Letta. Non vale però per il Movimento 5 Stelle, che non ha partecipato a nessuno sfascio. Ma il Movimento 5 Stelle, quali sono gli addebiti che fa Napolitano? Ribadisco, una volta io ho 61 anni, una volta quando si parlava male del presidente uno rischiava di essere indagato. Invece adesso siamo alla corsa di chi più vilipende il nostro capo dello Stato. Ma dove sta il senso del patriottismo? Dove sta il senso del paese? Questo è, nonostante tutti i disastri, adesso si sta togliendo di buono anche questo sentimento, ha capito? Questo è il dramma che vive questo paese, e questa gente, secondo me, che non c'entra niente con il nostro paese, con i problemi del nostro paese, continua a fare spettacoli in televisione a destra e a sinistra. Ripeto, non vale per il Movimento 5 Stelle, no, non perché li voglia difendere, perché sennò... Dottor Maurizi, ma quali sono le accuse che il Movimento 5 Stelle... No, ma questo è un altro discorso, io stavo dicendo, mi riferivo a quello che ha detto lei. Lei ha detto, chi ha tenuto Napolitano in palmo di mano e adesso lo critica, fa la figura del pagliaccio sostanzialmente, e questo è un discorso. Questo però io ho semplicemente aggiunto, non vale per il Movimento 5 Stelle, che non ha mai portato Napolitano in palmo di mano, ecco, tutto lì. No, ma vabbè. Io non dicevo, guardi, sì, dottor, no, abbiamo capito quello che diceva Vittorio, abbiamo capito benissimo, grazie. Andiamo con Gennaro che chiama da Napoli. Io veramente le dico la verità, gli interventi di Pietro mi lasciano veramente piuttosto sconcertato, perché De Gregorio è andato in Parlamento con lui e penso che l'abbia scelto lui. Scilipoti, se non sbaglio, la stessa cosa. Sì. Razzi anche, ma va a costituirsi parte civile contro le sue stesse scelte. Io veramente queste cose, io non voglio dire dimmi con chi vai, perché per carità forse può essere eccessivo. Però voglio dire, un minimo di maggior capacità politica nel valutare le sue scelte, che lui adesso critica, forse ci voleva, o no? Gliel'ho detto anch'io, sicuramente, adesso che si ricandida alle europee sarà interessante capire come fa le liste, non lo so. Del resto in politica i cambi di casacca sono sempre possibili, certo che i casi che ha fatto lei per Di Pietro dovrebbero bruciare particolarmente. Guglielmo da Bologna, buonasera. Sì, buonasera. Io penso che Di Pietro farebbe meglio a ritirarsi in campagna definitivamente. Però io non ho chiamato per questo. Sì. Ho chiamato perché non sono d'accordo sul suo punto di vista sugli emolumenti dei divi della televisione. Perché chi come lei giustifica queste cifre dice ma portano pubblico, portano ascolti, eccetera. Ma allora perché i bilanci della RAI sono sempre disastrosi? Vuol dire che queste cifre sono fuori da ogni parametro economico di un'azienda come la RAI. Sì, così però lei me la offre su un piatto d'argento. Fazio e la Littizzetto sicuramente non contribuiscono al deficit della RAI, perché portano soldi, fanno guadagnare la RAI. Chi è che fa perdere la RAI è qualcun altro. Non perché io debba difendere Fazio e la Littizzetto, perché no, mi piacciono particolarmente, ma perché è un banale ragionamento economico. Ha capito? E quindi basta fare i conti di quanto costa e di quanto incassa il programma. Punto, fine. Su questo non c'è replica. Grazie a lei. Salutiamo invece Don Marino Ruggero, parroco di Nume di Molvena, in provincia di Vicenza, parroco controcorrente. Buonasera. Lei ride, ma è così. Sì, ha detto esatto. A parte che mi dicevano che lei ha la foto di Che Guevara nel suo ufficio, come si dice? Come si chiama? Nel mio ufficio parrocchiale. Ufficio sì. Parrocchiale. Chiamiamolo pure così, anche se non mi piace tanto il nome. Comunque. Ma lei è di sinistra? No, guardi, no. Non sono di nessuno, né di sinistra né di destra, però ho dei... Ha un'ammirazione per Che Guevara, tutto lì. Sì, per la sua energia specialmente. Ma non è per questo che l'abbiamo chiamata, è perché lei, non so se durante una predica o se semplicemente, come riportano i giornali, attraverso una lettera ai suoi parrocchiani, sostanzialmente ha detto... Che succede? è in ufficio, sta suonando il telefono. Esatto. Riceve molte richieste dai parrocchiani? Sì. Senti là, sì, squillano, ma quanti telefoni ha Don Ruggero? No, è lo stesso, ma c'è il cordless che contribuisce al suono, ma mi sto spostando. C'è una linea o più linee? Due linee, più il cellulare, siamo a tre. Lei ha invitato a fare lo sciopero fiscale le persone che non ce la fanno a pagare le tasse, cosa che, detta da un prete, uno dice innanzitutto che c'entra con la fede, con la cura dell'anima, insomma, questa cosa qua. Come mai lei ha sconfinato? No, assolutamente no. Io ci tengo a far capire che la fede ha senso solo se si concretizza nella vita quotidiana e quindi se diventa prima di tutto una testimonianza. È credibile solo su questo, se è così, se no altrimenti raccontiamo sempre teorie e basta, anche come in politica, anche nella fede. Quindi bisogna che cominciamo a fare sul serio e a essere prima che maestri testimoni di quello che diciamo. E quindi essere testimoni, come arriva lei da questo allo sciopero fiscale? Sì. E quindi vuol dire concretamente capire quelle che sono le problematiche che vive la gente comune, la gente delle nostre parrocchie, della nostra società, e non solo capirle ma condividerle e cercare anche di per primi di consigliarli su che cosa, dare un po' di luce. Però lei, io capisco la preoccupazione, c'è la crisi, ci sono le difficoltà a pagare, lì è una zona di molte imprese la sua, sì, imprenditori, molto, quindi molto. Un'alta pressione fiscale indubbiamente, però arrivare a dare consigli fiscali, lei fa più la parte del consulente, del commercialista, perché addirittura lei mi dice ci sono tasse giuste, ingiuste e perverse, e fin qua, poi tutto sta a capire quali, ci fa qualche esempio? Tasse perverse credo che siano quelle tasse che vediamo, sentiamo che ogni giorno nascono frutto quasi della fantasia dei nostri politici per colmare dei buchi che continuamente nascono nella finanza della nostra Italia. Tipo, faccio un esempio, tipo l'IMU che ha preso il posto dell'ICI, poi c'è la TASI, questa qua la intende? Sono tasse perverse. Ne inventano ogni giorno una, lo sappiamo, ma cioè, addirittura si scontrano tra di loro per capire qual è quella giusta, quella non è giusta, qual è giusto mettere, non mettere. Credo che il 90% circa delle persone che ci ascoltano, degli italiani, sul fatto delle tasse perverse sarebbe d'accordo con lei, anche se può essere facile qualunquismo. Però insomma, la cosa che diciamo tra le indicazioni che lei dà, che più mi colpisce però è questa. Lei sembra quasi come quando Berlusconi disse che non bisognava pagare le tasse più del 33%, lui disse il 33%, lei ha detto più del 10-20%, così. Sì, non sono io a dirlo, c'è un'etica cristiana che lo dice, che non bisognerebbe pagare le tasse più del 10-20% al massimo del salario di una persona. Perché l'etica cristiana, mi scusi, ma di qualunque salario? Perché per esempio noi abbiamo un'impostazione progressiva sulle tasse, per cui è chiaro che uno che guadagna 800 euro al mese paga quelle tasse lì, paga il 10%, chi guadagna 80 o 100 mila euro all'anno o al mese deve pagare anche lui il 10%, secondo lei? Ah, questo bisogna chiederlo a chi ha inventato questa etica. Io sono dell'idea che comunque le tasse è giusto pagarle ed è giusto anche vedere dove vanno a finire i risultati di queste tasse, che è un altro lato purtroppo negativo di questa logica. Sì, una cosa interessante, mi scusi, è questa, che con le tasse si pagano per esempio anche i servizi ai poveri, no? A quelli che non hanno risorse. Questo dovrebbe essere una cosa che sta a cuore alla Chiesa, o no? Sta a cuore alla Chiesa, il problema è che però non vediamo che è così, purtroppo. Non è così, cioè con le tasse non si paga, non si aiutano i poveri, ma si fa dell'altro. Sì. Perché ride? Anche nella Chiesa è così, purtroppo, tante volte. Anche nella Chiesa è così, sì, per via della corruzione, perché? Sì, con l'8 per 1000, ma lasciamo stare, non è il caso, va bene. No, ma lei ride, mi dica, parlava dell'8 per 1000. No, nel senso che comunque anche l'8 per 1000 avrebbe una destinazione ben specifica per i poveri, che rimangono solo le briciole per i poveri, perché si colmano altri buchi prima di questi. Sì. Però lei in passato già si è beccato già una, come possiamo chiamarla, una squalifica, un cartellino giallo, è stato spostato, messo in quarantena per qualche mese perché voleva andare al Grande Fratello? Sì, queste sono parte delle mie provocazioni anni fa, sì. Quando avevo provato a fare questi provini, ma non era sopra la Lega del Fratello, era per vedere tutte le dinamiche e le logiche che ci sono sotto a questi reality. Sì, lei ha detto per andare comunque a, insomma, a portare il verbo anche lì, in qualche modo, no? Sì, diciamo così in sintesi, ma le cose andrebbero spiegate meglio comunque adesso, non c'è tempo penso per farlo. Non c'è il tempo. No, beh, il tempo abbiamo ancora poco tempo da questo punto di vista, però lo so. Non vuole più parlare di questa esperienza. No, è un'esperienza interessantissima che a me è piaciuto farla fin dove sono ho potuto arrivare, perché ovviamente dopo mi sono stati messi i talenti. Però è molto interessante per vedere veramente, ripeto, le dinamiche che ci sono sotto nei preliminari di questi reality prima di tutto. E poi capire anche tante dinamiche che ci sono anche nel modo di pensare. Ho capito. Giovani, non ma insomma, lei non teme un'altra cartellino giallo, un'altra ammonizione per queste sue prese di posizione? Ce ne sarebbe da dire, anche se adesso dobbiamo davvero salutarci. Lei è tranquillo, non è che gli arriva tra poco una lettera del vescovo? No, beh, io credo che ho imparato frutto dell'esperienza passata che comunque prima del secondo cartellino giallo, quindi dell'espulsione, sì, devo stare un po' più attento e magari anche di dialogare con quelle persone. Vabbè, comunque c'è un servizio delle Iene, vero, di luci in arrivo su di lei, questo ce l'ha rivelato, possiamo dirlo senza svelare alcun segreto. Per il momento grazie a Don grazie Marino a Ruggero di Nume di Molvena, provincia di Vicenza, è tutto per questa sera, io vi ringrazio cari ascoltatori, domani sera dovrebbe tornare, credo, Giuseppe Cruciani, me lo auguro per lui perché adesso è a letto con la febbre. A domani comunque, buona serata a tutti. Radio 24, la passione si sente.